24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. La decadenza, la decadenza. Tutti sanno qualcosa, senza ricorso la maggioranza sarà sola senza te. Attenzione! Noi siamo qui in un giorno amaro, un giorno di lutto per la democrazia. Ed eccoci allora, sono le 6:33 minuti. Buongiorno cari italiani, cosa avete fatto nel vostro giorno di lutto ieri? Nel giorno di lutto siete andati a lavorare come al solito? Chi lo sa? Alle 6:34 minuti, ben ritrovati, questo è 24 mattino e voglio salutare Miriam Lucchetti in redazione, voglio salutare l'Alpino, Peter Bescapè in regia, o lo dico anche a quest'ora, sabato, siamo in diretta dal Forum Agenti, se volete venire a vederci alla Fiera di Milano, siamo lì alle 2, dalle 2 alle 3, cioè a quell'ora di solito c'è il meglio di 24 mattino, stavolta è il meglio del meglio, siamo in diretta e potete venire a vederci se andate sul sito di radio24.it, scoprite come. Dai, forza, apriamo il Parlamento che anche oggi si apre, anche ieri, giorno di lutto. Il caffè volentieri a tutti quanti. Ah, Nicole, la bella Nicole. Allora, voglio salutare Vincino, buongiorno. Eccoci qua, allora, voce da non da post giorno di lutto, devo dire. Assolutamente, come dire, ma io sono già da un'ora in giro, Era tutto da sé, non c'era un berlusconiano in giro, guarda. È alle 5:30, voglio sperare. Forse sarà stata l'ora, però come dire, non può, c'era, essere, non può essere. Solo una lontano una macchinetta della polizia e basta. Una banca faceva wah per la storia del limo, perché la buona uscita che era la seconda rata del limo, però la fanno pagare alle banche, per cui anche Mediolanum, per cui un disastro, povero. Sì, infatti ho capito tipo tre parole dell'ultimo tuo concetto, però insomma hai messo scusa, la seconda rata del limo non la pagano le banche. Certo, ecco, sì. E quindi anche Mediolanum è una banca. Certo. Sai, tra i suoi tanti conflitti, ma le sinapsi alle 6:35, ma infatti sì, no, è vero. Ecco qua, voglio salutare Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama. Eccolo qua, il suo giorno. Ciao, buongiorno a tutti, un po' di cinetico di Vincino. Sì, ha iniziato subito, ha messo insieme IMU, Berlusconi, Mediolanum, banche, complotti. La nuova maggioranza, La nuova maggioranza, tutto. Certo, grande vittoria dei 5 Stelle, assolutamente. 5 Stelle! Il prossimo governo è PD, 5 Stelle. PD, tutto insieme. Allora, tu Maurizio, nel tuo giorno di lutto cosa hai fatto? Ma io guardato le cronache, ovviamente ho fatto altro perché dovevo organizzare il lavoro del giornale del prossimo numero. Hai lavorato. Sì, ho fatto tutto. No, ma tra l'altro guardate, proprio nel giorno in cui tolgono l'IMU Berlusconi si lamenta, guarda che non va mai bene niente, Vincino. Porca miseria, cioè, non ti accontenti mai, dici, no? Vabbè, invece proprio il giorno dell'IMU, va bene. E di che dobbiamo parlare? Si sono esercitati i giornali, vi regalo, scegliete il migliore titolo. Allora, l'Unità manco lo cita, cacciato un evasore. Maurizio, questa è cacciato un evasore. Ti mancava l'Unità. Sì, l'Unità ti mancava. Oppure il Secolo XIX, sai come titolo, Vincino? No. Bello ciao. No. Beh, non ti ha entusiasmato. No, era un po' come la vignetta di Giannelli stamattina sul Corriere. No? Sì. La stessa, bello ciao. Sì. Poi il giornale, colpo di stato, vendetta nelle urne. Questo com'è, Vince? È drammaturgico questo qua. È drammaturgico. No, ma questa è la cosa, cioè io ieri ho capito perché quello non si è dimesso ieri mattina o l'altro ieri sera. Per costruire questa drammaturgia, no? Questa la drammaturgia. Cosa, tra il contrappunto, tra l'articolo 138,4 e quel magistrato terribile là che hanno messo a presiedere nella sezione filiale del Senato, Grasso là, e la piazza. No, Presidente del Senato, Grasso, sì. Il capo di magistratura democratica in Sicilia qualche anno fa era là, tac. No. Io una gliel'avrei lasciata, cioè una un voto segreto, uno solo su tanti e via. Tanto era 20 voti in più, 20 voti e 10 in meno, no? Sicuramente Formigoni e gli altri avrebbero votato contro, no? Contro lui. Sì. No. Tu lo vorresti fare segreto. Invece qualcuno a favore, era così. Sì, uno ma tra l'altro solo l'avrei fatto su 10. Io ieri seguivo le cronache, Maurizio, anche tu seguivi. A un certo punto mi sono distratto, ma ti giuro, mi sono distratto un attimo perché vedevo Mentana, ma dopo un po'. Mi sono distratto, mi sono girato, ho preso un bicchiere d'acqua, ho visto la seduta aggiornata domani. Ma come la seduta aggiornata? Poi ho visto ed è caduto così. Ma non c'è stato giorno, via, ta, veloce. Non c'è stato manco tu, Maurizio Tortorella, tutto questo pathos, basta, pum. Devo dire che la cosa che mi ha stupito di questa vicenda è proprio l'aspetto burocratico. Il Senato ha trattato la cosa come se fosse abbastanza normale, insomma banale, non avesse nessuna implicazione politica, nessuna implicazione giuridica, nessuna implicazione, cioè, è come se avesse voluto certificare e accettare banalmente, piegando la testa, le cose delle decisioni della magistratura, e non è così. Ma che dovevano fare? Su questo ma però non è soltanto così, non può essere soltanto così. Ma perché? Allora, diciamocelo, l'ho già detto alla tua trasmissione più di una volta. La legge Severino, la discussione è stata anche uggiosa, noiosa, per carità, si è detto anche di tutto, ma si è detto nei talk show fondamentalmente, che la conclusione dovesse essere questa o potesse essere questa era indiscusso, nel senso che se non fosse stata la legge Severino, da qualche mese sarebbe stata sicuramente la decisione della Corte di Cassazione che avrebbe a quel punto ratificato un nuovo calcolo dell'interdizione dei pubblici uffici. Però il ruolo del Parlamento è diverso. Certo. Il ruolo del Parlamento è quello di valutare la politicità di un atto. Ho capito, ma cosa doveva fare? Cioè, ma con un magistrato che preside che deve fare? Ma che c'entra? Basta. Ma come che c'entra? Scusa, ma che vuol dire che non ho mai visto nessun presidente del Senato così. Ma questo l'ho già detto io che questa fosse la scelta. Però si può tornare per esempio a discutere dell'errore che fu fatto nella immunità parlamentare, perché a questo punto, signori, la situazione è veramente a un timbro di ufficialità. A questo punto la magistratura è un potere prevalente su quello del perché politico. Questo sinceramente non seguo tutto il dibattito eccetera, ma questa non la capisco. Ma se banalmente, se fosse il senatore Pinco Pallino con una condanna definitiva, saremmo qui a fare tutti questi discorsi? Da mesi non siamo neanche a stapparci, non c'è neanche gente che sta prendendo. Ma chi se ne frega? Ma se uno vuole stappare lo spumante perché Berlusconi decade dal Senato, vuol dire che ha una vita triste. Uno che invece di stappare lo spumante per il compleanno di sua moglie o di suo figlio lo stappa per Berlusconi, è una persona triste dentro. Non hai capito, cambia tutto. È la loro grande vittoria, è la prima grande vittoria di Grillo, questa qua. Ha diviso divide et impera, ha diviso la maggioranza. Sì, ma io ripeto, Vincino, ripeto la domanda anche a te: se fosse stata la vicenda del senatore, come ci sono stati di altri senatori, non celebri, il risultato sarebbe stato uguale, però con la presenza normale le forme sarebbero state rispettate di più. Ma lascia stare le forme. Ma quello che conta, come dire, la democrazia è fuori. Poi in realtà il disastro sai qual era? Che il 90% dei quelli là eletti con Berlusconi deficienti, metà di quelli del PD deficienti, no? Metà di quelli, cioè veramente un disastro. Un Parlamento di deficienti, decaduti e deficienti, insomma, sì, no, divide infatti, così. C'è una cosa da dire, questa volta qua i nominati hanno fatto fuori un nominatore. Questa l'ha studiata, Vinci. I nominati hanno fatto fuori. Ma ci sono due cose che mi hanno. Allora, Libero, il titolo sobrio di Libero sulla presenza dei senatori a vita, che peraltro alcuni come Elena Cattaneo non ha votato. Ha detto Elena Cattaneo, una marziana, ha detto: ho seguito tutto il dibattito, è stato molto interessante dal punto di vista politico. Questa è stata la dichiarazione della senatrice Cattaneo. Libero titola così: Cecchini, spuntano i senatori a morte. Questo è il titolo di Libero. Ma stravince, poteva mancare l'intervista a Francesca Pascale. Francesca Pascale al Corriere, tutto, al Corriere Pascale, della Sera. Al Corriere dice: accorrerei, andrei di corsa dal Papa a parlare della tragedia di Silvio. Ma io dico, ma sai, ma che ha fatto secondo me un errore lui, quale? Lui ieri doveva cantare, suonare, doveva fare, capito? Doveva fare l'intrattenitore, no? Il Papa, Maurizio, il Papa, la Pascale che va dal Papa. Ora Papa Bergoglio accoglie abbastanza tutti, parla, alza il telefono, cioè, però questa la vedo un po' dura, no. Maurizio, un po' difficile questa. Che devi dire? Non lo so. Secondo me no, guarda, secondo me è all'altezza del Bergoglio. Potrebbe assolutamente sì. Guarda. Potrebbe chiamare anche Francesca Pascale. Un poco pietosa là, forse poi poco pietosa là, e quello scende e l'abbraccia, dai, quello abbraccia tutti, tranquillo. Non abbraccia tutti, vabbè. Sì, invece visto, invece oggi c'è Friedman con Renzi e Renzi dice finish. Ah, sì, sì, sì, non sì. Fa quello che vogliamo, finish. Renzi oggi lo ribadisce ad Alan Friedman dal Corriere della Sera: finora siamo stati nel PD dei good guys, dei bravi ragazzi, tutti perfettini, ma adesso bisogna cambiare, sennò finish. Maurizio, finirà, sarà Renzi a decretare la fine di tutto, secondo te? Ma è quello che lui spera di poter fare, credo che ne abbia anche qualche numero in questo momento. Io mi aspetterei qualche sorpresina dalle primarie, ma insomma questa è una mia idea probabilmente minoritaria, ma cioè vince Cooperlo, vince no Cooper, questo no. Non credo che vinca così alla stragrande come ah, ma a proposito Maurizio, tu che saprai tutto perché lì alla Mondadori sapete tutto, ma questo gran colpo che Berlusconi dice di avere contro Renzi, che cos'è, cosa sarà mai? Sai che senti? Non ho la più pallida idea. Abbiamo un grande, una grande, non passa attraverso di noi, perché non passa, che ne sai? Non, abbiamo un gran colpo contro Renzi. Vincino, secondo te cos'è? Secondo me è una, cioè, Berlusconi è circondato da pessimi figuri, tra cui è presente l'ultimo periodo delle armi, cose della guerra, seconda guerra, le armi finali, che ne so, minacce di armi segrete, l'arma atomica, stupidaggini proprio. Non ha niente. Totale, in però secondo me queste sono cose riferite più che dette da lui. Ah, non ha niente in mano, secondo me. Quello là, Azione Cattolica, cose, quella, secondo me manco un amante c'ha per ora. Lui sta attentissimo, perché se lo becca è circondato da ragazze deliziose, una più carinella, però proprio per questo lui sta così, sa benissimo che là si gioca tutto, si gioca, un altro po' di astinenza si gioca. Un altro, poi dopo può fare quello che vuole. No, è chiaramente una volta segretario del PD, poi controlla i servizi delle cose e via. Caro Renzi, ancora un pochino di astinenza, mi raccomando. Poi dice Vincino, tra un po' controllo dei servizi segreti, tutte le amante che vuoi. Va bene, andiamo a sentire il traffico. 24 mattino. Grande il sindaco De Luca di Salerno che multa i cafoni. 100.000 De Luca. Io sì, sono proprio arrabbiata, e perché devo dire una cosa, siccome parlano tutti di Berlusconi, ma la verità su Berlusconi, guarda che è una sola. Berlusconi è bersagliato dai magistrati e giornalisti, sinistrossi e massoni, che messi tutti insieme non valgono nemmeno le strighe delle scarpe di Berlusconi. Allora Alessandro Milla, non dire sciocchezze, quale abolire le regioni? Abbi pazienza, negli altri paesi funzionano benissimo, basta stabilire delle leggi che impediscono a questi ladri maledetti di usare così il nostro denaro. Ci sarebbe un sistema molto semplice e poco dispendioso per risolvere il problema dell'alluvione in Sardegna. Basta portare sul greto le torrenti che hanno esondato tutti i consiglieri delle regioni italiane, perché accidenti, se bevono come mangiano, in poco tempo ripulirebbero la Sardegna. Mi risulta che i francesi in qualche museo abbiano ancora qualche modello di vecchia ghigliottina da poterci prestare. Sarà anche da oliare, ma credo che saremmo in tanti ad offrirci per farlo gratis. Buongiorno Mila, ecco questa è la prova, hai visto, la Minetti ha fatto più strada lei col suo culo che non la gente con la festa. Auguri a tutti gli italiani, ciao, in bocca al Yuk. Vabbè, vabbè, vabbè, in bocca al Yuk. 6:50, siamo con Maurizio Tortorella e siamo con Vincino. Certo che le immagini, qual è l'immagine che vi ha disturbato di più ieri, che avete visto, se c'è qualcuno vicino a me? Quella, no, come Aldo Moro, come Aldo Moro. Hai visto quel fotomontaggio in cui c'erano le brigate rosse, no, che tenevano Silvio? No, quello sì, quello era terribile, quello, sì, là, dai. Assolutamente, non... Vabbè, come dire, ma ci sta nel, come dire, in questi casini qua di piazza ci stanno sempre le stronzate di ogni genere, non... non lo so, non è stata una, ecco, poteva essere, io l'avrei fatta molto meglio da regista, sì, avresti cantato, lui secondo me doveva suonare, ecco, doveva suonare la cosa come in crociera, là. Sì. Le canzoni francesi, no, il Fossawar, lo Schelamusset, insomma una sembrava un po' sì, come un po' francese, un po', ma tipo come quella storia, quello lettore, quello con la ghigliottina, no? Sì, cioè, non capisci, ci prestiamo a provarla noi con le nostre teste. Sai, vuole la ghigliottina, la ghigliottina. Invece Berlusconi ha intonato, no, non è che ne ha intonato, no? Però insomma, siamo pronti alla morte, questo è il concetto, anche lui. Che le parole di Mameli sono impegnative, siamo pronti alla morte. Caro Maurizio, qua, ma io ho questa tutta iconografia, questa, no? Berlusconi è straordinario a far pensare che i problemi suoi siano anche i problemi di tutto il paese, ma è davvero così, Maurizio? Io sinceramente, insomma, questa cosa... Beh, allora, tu sai cosa penso, sì. non sono un berlusconiano scatenato, ho però la netta impressione, l'ho scritto e continuerò a pensare fino a che campo, che 34, che poi in realtà sono stati più processi in 20 anni contro un solo uomo, non hanno, non è che lo penso, non hanno assolutamente una uguale in nessuna parte del mondo. Ricordo che contro Totò Riina sono stati condotti 19 processi in questo paese. Mm-hmm. E quindi obiettivamente che ci sia stato qualcosa di anomalo dal punto di vista giudiziario non può essere negato, non credo che nessuno sano di mente possa negarlo. Poi, voglio dire, magari la responsabilità le ha curate un magistrato, si può serenamente pensare che possa anche aver sbagliato i magistrati. No? Vabbè, certo che si può sbagliare, però in un paese sia, cioè, in cui le regole del gioco, ci si danno delle regole, si accetta anche che un magistrato possa sbagliare. Come può sbagliare quando uno viene assolto, come... non lo so, comunque questa vicenda mi sa che ce la porteremo avanti. La velocità della nostra magistratura sia però superiore alla... Sì, no, ma soprattutto negli altri, non in questi qua di Berlusconi, ma negli altri, no, in quelli là, in quei ragazzi di Perugia, quegli altri prima assolti, poi condannati, sì, ora ricondannati, sì. Dappertutto. Sbagliano, no? Cioè, sbagliano. Come dire, una mi sembra mi sembra che veramente, no, da 30 anni la riforma della giustizia era il centro di tante cose, no? Vabbè. Comunque svolteremo mai, chi lo sa. Vi lascio con questa questione, vi saluto intanto. Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama che trovate da oggi in edicola, Poligono Italia, e c'è la faccia di Berlusconi in prima di Panorama, così come saluto Vincino, alla prossima, è tempo di giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492, chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492, e ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:21 minuti, cari italiani, forza, forza dopo il giorno di lutto. Così parlò Silvio Berlusconi. Oggi bisogna tornare a lavorare, bisogna tornare alle nostre faccende quotidiane. Allora, noi parleremo appunto di questa alle 8:15, avremo ospiti Alessandro Sallusti, direttore del giornale, avremo ospite Francesco Bei, notista politico della Repubblica. E poi indovinate di cosa parlano i giornali oggi soprattutto, indovinate, è così un argomento a caso. Andiamo a sfogliarli, È giovedì 28 novembre, a parte il Sole 24 Ore che apre sulla decisione dell'IMU, IMU prima casa abolita ma non per tutti, questo è il titolo di prima pagina e vedremo poi i dettagli. E poi invece la notizia del giorno, chiaramente la decadenza di Silvio Berlusconi dal Senato. I titoli più disparati ci sono i sobri, Corriere della Sera, Berlusconi fuori dal Senato, mi batterò ancora, Repubblica, Berlusconi leader decaduto. Oppure c'è la Stampa, Berlusconi fuori dal Parlamento, Il Messaggero, Berlusconi decade, combatterò. E poi ci sono quelli un po' più così o di colore o aggressivi. Il Fatto Quotidiano, è fuori, può finire dentro. E si evoca il carcere, insomma. Libero, torno subito. L'Unità neanche lo cita nel titolo principale. Cacciato un evasore. Questo è il titolo. Mentre il Giornale, colpo di Stato, vendetta nelle urne, Senato, ore 17:42, il secolo XIX, bello ciao, e c'è la foto di Berlusconi, si fa il verso a bella ciao. Il Cavaliere disarcionato invece è il titolo di Avvenire, mentre La buona uscita è il titolo del Manifesto con la foto di Silvio Berlusconi. Insomma, come vedete ci si esercita su questo, ma prima di arrivare alla gran carrellata di articoli, molti in fotocopia, il ventennio di Berlusconi, guarda, non manca giornale nel quale non ci siano epitaffi, analisi, l'analisi di un'epoca, eccetera. Ma prima di arrivare a questo, anche oggi voglio regalare gli articoli che ci sono, il meglio del meglio sulla questione delle regioni con il Piemonte, sapete, in questo momento sotto l'attenzione della procura per le spese pazze dei consiglieri. Oggi c'è un Marco Imarisio spettacolare, per così dire, anche se magari poi qualcuno mi scrive, mi fa innervosire quando mi leggi certe cose, ma leggo quello che sono scritti sui giornali, gli articoli, non è che me li posso inventare. Pagina 24 e 25 del Corriere della Sera, Marco Imarisio, quei regali di nozze all'assessore rimborsati con soldi pubblici. Tra le spese dei politici piemontesi, è un articolo che fa un po' il riepilogo di tutte le spese, anche campanacci e videogiochi, lettore MP3, le Wii andavano per la maggiore, videogiochi, Nintendo e non solo, c'è una spiegazione per tutto, Per esempio Maurizio Lupi, fondatore della lista Verdi Verdi, tra coloro sospettati di aver fornito una residenza fittizia per poter abbondare sul chilometraggio. Oppure Roberto Boniperti, per riscattare un 2009 che lo aveva visto arrivare 63esimo su 65 nella classifica delle presenze, nell'anno seguente aveva inanellato presenze su presenze. 22 in agosto, ma il consiglio regionale risultava chiuso in quel momento. Il suo nomadismo non gli ha comunque impedito di provvedere ad acquisti di una certa importanza, come una caldaia, un congelatore, un frigorifero, una lavatrice, una televisione 3D, mangimi, foraggi, integratori zootecnici, riparazione di bicicletta e una confezione regalo di gorgonzola piccante da 153 euro. E poi c'è Franco Maria Botta, uno di quelli che ieri si è distinto anche per quella zuffa in consiglio regionale. Adora il ristorante La Gola, al punto da presentare ricevute per più pasti nello stesso giorno, pranzo, cena, talvolta anche merenda. Poi 1300 euro per l'acquisto di un set da viaggio, 500 e ancora 500 per un porta documenti, infine altri 5000 sempre nello stesso negozio. e ancora Luca Pedrale, oppure l'estrosità di Gianfranco Novero, barbuto leghista di montagna, che chiede il rimborso di campanacci per bovini, bardature per cavalli, nonché una bronzina acquistata in Alto Adige presso un artigiano specializzato in finimenti per carrozze. E vabbè, e poi c'è la vicenda dei regali di nozze a Michele Coppola, assessore regionale alla cultura, piuttosto emblematica. Come succede negli ambienti di lavoro, i colleghi si tassano per un dono collettivo, i consiglieri del PDL, i suoi compagni di partito ci mettono 350 euro a testa per l'acquisto di un vassoio d'argento che ne costa 4.000. A questa colletta partecipa anche Roberto Cota. Già, ma chi paga tutto questo? Il sospetto, soldi pubblici. Vabbè, il Corriere stesso fa sapere in un articolo a corredo di questo elenco che vi avrà messo di buonissimo umore certamente prima di andare al lavoro, un articolo di Sergio Rizzo che fa sapere che i vitalizi nel Lazio sono aumentati. Ma come dite? Mai più vitalizi, si diceva dopo il caso Fiorito. Ricordate, aveva promesso Mario Monti, mai più il vitalizio a 50 anni, mai più dopo soli 5 anni di legislatura. Questo nei giorni roventi alla Regione Lazio nel caso Fiorito. Ebbene, la prova è nei conti del Consiglio regionale del Lazio di quest'anno. Compare una voce monstra di 20,4 milioni di euro. Un capitolo che comprende appunto la spesa dei vitalizi degli ex consiglieri, ben 17 milioni, una cifra superiore all'8% rispetto ai 16 milioni di euro dello scorso anno. Dunque i vitalizi al Consiglio Regionale del Lazio costano 1 milione di euro in più rispetto all'anno scorso. Siete ancora allegri? Se avete quel pizzico di buon umore, ve lo rovino così, sadico che non sono altro. Pagina 11 del Fatto Quotidiano, le pensioni d'oro. Sapete che anche quest'anno è stato messo un prelievo sulle pensioni d'oro? Sì, ma non per tutti. Sì, ma non per tutti. Indovinate un po' le pensioni che verranno risparmiate dal contributo di solidarietà sulle pensioni d'oro. Se pensate male e pensate per caso che siano i vitalizi dei parlamentari, porcaccia la miseria, ci avete proprio azzeccato. Ma guardate, proprio quelli, pensioni d'oro, salve solo quelle dei politici. Salvatore Cannavò sul Fatto Quotidiano: le pensioni d'oro verranno tassate da un contributo di solidarietà, un testo che specifica sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forma di previdenza obbligatoria. Si applicherà il contributo del 6% sugli importi superiori ai 90.000 euro, che sale al 12% sopra i 128.000 e fino al 18% per chi supera i 193.000 euro di pensione. Ma non vale per i vitalizi, perché i vitalizi, si spiega all'INPS, non costituiscono una pensione. E sentito dal Fatto Quotidiano, il vice ministro all'economia Fassina conferma e ammette l'errore: non ce ne siamo accorti. Ah, non ce ne siamo accorti, che sbadati, non ce ne siamo accorti, dice Fassina, ma rimedieremo con un emendamento alla Camera, sarebbe un drammatico problema di equità. Avete capito, cari italiani, qual è il problema? Non se ne sono accorti. La distrazione è il problema a volte in Italia. La pubblicità. 24 mattino. Allora, eccoci qua, siete pronti ad affrontare il profluvio di articoli che ci sono sulla vicenda Silvio Berlusconi? Che dire, sono tanti, sono tantissimi, inevitabile la notizia del giorno. Sono anche tutti abbastanza uguali, ovviamente con firme diverse, con toni diversi. Il resoconto di questa giornata in Parlamento, tutti i giornali hanno il racconto di una o due pagine di le parlamentari in lutto vestite di nero, le liti, le risse, gli umori, gli odori del Parlamento, insomma tutti abbastanza uguali come resoconti. Sì, del Senato la decadenza, Berlusconi che dice un giorno di lutto, questo è un altro titolo che viene riecheggiato un po' su tutti i giornali. Beh, per selezionare qualcosa di diverso, qualcosa di particolare sui giornali, vi segnalo intanto la battuta di Silvio Berlusconi, che c'è anche questo un po' ovunque: ricordatevi le arance, così ha detto ai suoi con ironia Silvio Silvio Berlusconi riunendo i parlamentari, ricordatevi di risparmiare per portarmi le arance una volta che sarò in carcere. Per dire le notizie diverse, beh, intanto questa, la questione dell'arresto, della possibilità dell'arresto, perché per esempio il Fatto Quotidiano titola proprio in prima pagina così: è fuori, può finire dentro. In realtà Luigi Ferrarella, che è il cronista di giudiziaria forse più informato in Italia, sul Corriere della Sera, pagina 6, racconta: per le inchieste in corso non ci sono ipotesi di arresto. Chiede Ferrarella: ora cosa cambia per l'ex senatore Berlusconi, oltre al fatto che per 6 anni in virtù della legge Severino non potrà candidarsi alle elezioni o ricoprire incarichi di governo? Di fatto solo qualche patema d'animo in più nel parlare al telefono e nell'aggirarsi in casa ufficio. Qualche circospezione al telefono, perché da oggi il leader di Forza Italia, se un PM argomentasse i motivi e se un giudice li autorizzasse, come qualunque altro cittadino potrebbe essere intercettato sulla sua utenza, senza che la magistratura, come invece fatto finora, abbia l'obbligo di chiedere autorizzazione al Parlamento. Ma la situazione giudiziaria allo Stato della possibilità dell'arresto è invece fantascienza, buona solo per speculazione altrui o vittimismi suoi. La possibilità teorica di essere arrestato non avendo più lo scudo dell'immunità, insomma, è fantascienza per Ferrarella. Le esigenze cautelari, che in presenza di gravi indizi possono giustificare un arresto, devono essere anche attuali, e invece tutti e tre i fronti giudiziari aperti sono già cristallizzati o in conclusione di indagini, come a Bari per l'accusa di aver indotto Tarantini a mentire sul giro di prostitute, o in rinvia giudizio come a Napoli l'accusa di corruzione e finanziamento illecito ai partiti per compravendita del senatore De Gregorio, o addirittura sono in motivazioni di sentenze di primo grado come a Milano, dove c'è il deposito del processo Ruby. Nemmeno è realistico che Berlusconi venga arrestato in esecuzione di un cumulo di futuribili sentenze definitive tale da revocargli il beneficio dell'indulto che gli ha abbonato 3 dei 4 anni di condanna in Cassazione per la frode fiscale sui diritti TV Mediaset. Dunque questa, secondo Luigi Ferrarella, è la situazione dal punto di vista del rischio dell'arresto. E poi c'è un po' di interviste. Beh, certamente l'intervista forse più interessante dal punto di vista del colore è quella a Francesca Pascale. Viene intervistata da Tommaso Labate, la fidanzata di Berlusconi. Sul Corriere della Sera, pagina 8, faccio appello a Papa Francesco, mi riceva e ascolti la tragedia di Silvio. Questo è il titolo. Per la verità, nell'articolo la posizione è diversa, non ha detto questo. Dice: andrei di corsa a parlare col capo dello Stato come andrei di corsa a parlare con Papa Francesco del caso Berlusconi. E poi dice di Alfano: già dal nome, quello di Alfano, più che un partito mi sembra una società di autonoleggio. Alfano ha preferito scegliere un'altra strada e Silvio è la persona che lo ha inventato come politico. Gli sarebbe bastato aspettare, sarebbe stato lui il leader naturale. Io ora sarò e sono accanto in ogni sua scelta a Francesca, a Silvio Berlusconi. Così dice Francesca Pascale al Corriere della Sera. E quale scelta? La scelta anche della fuga? Per esempio scrive così Carmelo Lo Papa su Repubblica nel retroscena: il cavaliere si prepara a ogni evenienza, mi rimane sempre la villa ad Antigua. Questo è un virgolettato detto da lui, tra l'altro secondo le voci di alcuni organi di stampa già da un paio di settimane Berlusconi avrebbe dato la delega ai figli di essere totalmente i gestori del suo conto corrente. Si parla di questo passaporto di Putin, tanto che lui era ironizzato: vado in Russia, mettendosi a ridere. Ma insomma, l'ipotesi della fuga è un'ipotesi che in qualche modo qualcuno anche sui giornali mette in prima pagina, come l'altra polemica che c'è, quella nei confronti dei senatori a vita che ieri si sono presentati al Senato, criticati da Gasparri e Bondi. Renzo Piano ha risposto così: beh, ma essere criticato da Gasparri e Bondi è sublime, è una pura beatificazione. Questa è la risposta del senatore Renzo Piano. Mentre Libero, in maniera sobria, li definisce così: Becchini, a pagina 13, spuntano i senatori a morte, presenti solo alla fucilazione di Silvio Berlusconi. Ma Elena Cattaneo, senatrice a vita, scienziata, intervistata da Repubblica, peraltro, a pagina 11 dice: noi senatori a vita siamo a pari degli altri, io sono intervenuta, ho partecipato a tutta la discussione, l'ho trovata anche molto interessante dal punto di vista politico, ma alla fine ho deciso di non votare. Così la senatrice a vita Cattaneo. Interessante anche i riflessi sul governo ora, che succede? E beh, è interessante il colloquio che Alan Friedman fa sul Corriere della Sera con Matteo Renzi. Vado a trovarlo all'interno del suo ufficio a Firenze, parto da quel finish che lui ha detto: se il governo non fa quello che diciamo noi, finish. Finish, dice Renzi, significa che questo governo è nato in modo un po' strano, come un governo di larghe intese, tutti insieme per fare le riforme. Oggi il governo delle larghe intese è saltato e col ritiro di Forza Italia e Berlusconi non c'è più un governo di larghe intese e non si può continuare ad andare avanti facendo finta che tutto sia rimasto uguale. Bisogna dare una svolta. Il PD finora è stato prudente, paziente, responsabile. Ok, siamo stati, dice Renzi, dei good guys, dei bravi ragazzi. Ma adesso è il momento di chiedere che le cose si facciano e quindi ci faremo sentire. E Alan Friedman dice: altrimenti finish. E Renzi ribadisce: se no finish. Eccolo qui. Matteo Renzi, secondo molti, insomma, secondo molti analisti della politica, potrebbe essere l'uomo, una volta conquistato, dovesse conquistare il Partito Democratico, lui a dare il colpo di grazia al governo Letta. Staremo a vedere. In tutto questo, ieri è stata la giornata catalizzata dall'attenzione della decadenza di Berlusconi, ma nella quale per esempio si è cancellata l'IMU, ma non per tutti e non in maniera definitiva. Mauro Meazza, buongiorno, eccoci qua, caro Mauro. Buongiorno, buongiorno. Allora, ieri si è parlato soprattutto di questo, la decadenza di Berlusconi, però è stato anche un giorno importante per la questione telenovelica dell'IMU. Sì, le novità? No, infatti, sì, sì, tu hai ancora quei 2 euro che mi dicevi. Sì, sempre. No, se me li presti, perché io ero convinto adesso di non pagare più l'IMU. E invece adesso mi trovo, ci sono circa, diciamo, siamo 4-5 milioni di persone col colpo di coda dell'IMU, la vendetta nella coda, insomma, entro il 16 gennaio c'è una quota da pagare. Guarda, spieghiamo tutto nelle pagine oggi del Sole 24 Ore, da pagina 3 in avanti. Abbi pazienza, sono qui che sto appunto facendo queste collette, se mi puoi dare anche tu qualcosa. No, lo so, va bene. Vabbè, magari una parte dei, non so, 50 centesimi, il resto lo tengo perché il governo magari chiederà qualcosa a breve, quindi io sono democratico e do un po' a tutti. Sì, ma vabbè, comunque tutto può fare, ecco, se tu me li presti, poi io te li ridò, è un po' come gli acconti. Ecco, però molti, caro Mauro, molti giornali parlano di beffa, cioè il Sole dice non per tutti, alcuni di beffa come La Stampa, ma che cosa si concretizzerebbe questa beffa? E guarda, ci sono degli esempi molto chiari sulla pagina 3, mi pare, del nostro giornale di oggi. La sostanza è questa: siccome i comuni hanno quest'anno aumentato l'aliquota della prima casa, perché poi c'era questo balletto, l'IMU è abolita, non è abolita sulla prima casa, qualche comune ha aumentato, qualche, 600 più o meno hanno aumentato, e questa differenza qui il governo non la copre, non ci sono i fondi per coprirla, quindi bisogna che ce la mettiamo noi. Chi si ritrova in un comune che ha aumentato l'aliquota, ieri appunto ancora alcuni comuni votavano l'aumento dell'aliquota, dovrà corrispondere questa differenza tra quello che ridà il governo e quindi il comune non vuole più nulla e quello che invece il governo non ridà e ce lo mettiamo noi. Oppure tu, se mi presti questi 2 euro. Ah, beh, certo, così andiamo molto lontano. Ho paura che sarà molto di più di 2 euro, però insomma io sto cercando un po' amici, parenti, eccetera. Un po' in giro. Tra l'altro, Mauro, io ho visto, dando uno sguardo all'estero, voi giustamente mettete in prima pagina, come molti giornali, la vicenda della Germania. Insomma, la Merkel lì, e visto che si parla di larghe intese in Italia, che pare insomma siano un po' zoppicanti, almeno nei numeri, o da rivedere. Lì invece a Berlino Angela Merkel ce l'ha fatta a trovare questa grossa coalizione con la Angela, sì, ce l'ha fatta, tra l'altro con questa contestata ipotesi anche di un pedaggio autostradale da caricare solo sui non tedeschi, quindi un'idea di Europa un pochino alla carte, come spiega Adriana Cerretelli oggi sul nostro giornale. l'Europa, insomma, ci piace quando possiamo usarla a vantaggio, ma non tanto quando poi appunto ci serve fare cassa e così via. Tra l'altro, a proposito di estero, Casa 24 oggi, con il Sole 24 Ore, le case all'estero. Tu prima parlavi di gente che voleva andare in Russia, voleva andare, ecco, sì. Ma ce l'hanno già la casa, quelli mi sa che ce l'hanno già. Sono già a posto, sì. Pagheranno l'IMU, mi immagino, non so. Non lo so se in Russia c'è l'IMU sulla Dacia, non lo so. Scherzi a parte, ci sono appunto le località più interessanti e anche poi uno speciale di 4 pagine sui bonus per le ristrutturazioni. Mi fai dare un messaggio in codice ai miei amici che si occupano di fisco? C'è il modello e relative istruzioni per il finanziamento beni, per il finanziamento dei beni ai soci. Attenzione, pagina di norme tributi, tutti i particolari in norme tributi oggi sul Sole. Perfetto. Allora, questo messaggio in codice è arrivato, Radio Londra chiama, grazie a Mauro Meazza, ti ritroviamo domani. E c'è chi mi scrive: 2 euro li devi prestare a me. Oh, mettetevi d'accordo, sempre 2 euro sono, non è che io ho i 2 euro, una volta che li do, non è che ho un po' a uno, un po' all'altro e poi basta, il traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Eccoci qua, allora vi voglio raccontare un articolo molto intenso che oggi sul Corriere della Sera viene pubblicato a pagina 29. La firma di Felice Cavallaro, è una storia drammatica, ma una storia molto molto particolare che vi voglio segnalare. La storia di Domenico Colapinto. Chi è? È uno dei pescatori di Lampedusa che lo scorso 3 ottobre ha cercato di salvare i migranti che sono morti, ne sono morti 366 in mare, lo ricordiamo, a Lampedusa. L'uomo che non pesca più dalla strage di Lampedusa, dovevo salvarli tutti. Da quel giorno è in cura dallo psicologo perché dice: li rivedo affogare ogni giorno e non riesco più a andare per mare. Scrive Cavallaro: sono passati 2 mesi da quando le sue mani hanno tirato su 18 naufraghi senza riuscire a salvarne altri 100, 200, dice lui, uomini, donne, ragazzi come i miei figli che affogavano davanti a me, dannato, impotente, sfinito, senza forze come loro, ma io vivo e loro annegati. È questo l'incubo che Domenico Colapinto, 50 anni, una moglie, 2 figli, si porta presso da allora ogni notte, gli occhi sgranati sull'orrore. Dice al Corriere: rivedo le braccia unte di nafta che mi scivolano via mentre quei cristiani spariscono tra le onde guardandomi, chiedendo. È arrivata anche una psicologa da Palermo, dice che se parlo passa. Io parlo, lei scrive, ma io la testa ce l'ho sempre lì, non ci deve pensare, mi dice, ma come faccio se i morti stanno davanti ai miei occhi? E la moglie, Maria Rosa, dice: ogni notte si alza, va in bagno, torna dolorante, prova a dormire, ma lo vedo sveglio fino a giorno. E questa è la storia che ha anche un risvolto, se volete, nel dramma positivo, perché Domenico Colapinto da allora ha fatto amicizia con Aregai, uno dei ragazzi che ha salvato e che ha ottenuto un permesso come testimone di giustizia perché ha riconosciuto lo scafista, ora vive a Lampedusa. E poi Colapinto si illumina perché via cellulare arrivano le foto delle 2 donne salvate, trasformando il suo braccio destro in una leva. E per questo ancora ferito e dolorante a distanza di 2 mesi. Mi ero imbracato a poppa, il corpo in acqua, e tiravo sulla fiancata i migranti. Le ultime 2 sono state proprio queste 2 ragazze, Kibret e Semar. Il braccio destro quasi mi si spezzava, lo sentivo quasi spezzarsi, ma pensavo che si spezzi se in cambio riesco a salvare queste figliole che il mare non si può portare via. Erano ridotte male, le fecero partire subito per l'ospedale di Palermo e adesso che le sento per telefono e vedo le foto mi commuovo e ripenso a come cominciò tutto. Insomma, racconta, è davvero una bella storia. Tra l'altro racconta Felice Cavallaro, i sopravvissuti chiamano papà questo signore di 50 anni che ha salvato alcune persone, ma dice: vivo da allora e non riesco ad andare più per mare perché ho invece negli occhi, davanti agli occhi, le persone che non sono riuscito a salvare, sono morte davanti a me. La trovate sul Corriere della Sera questa storia, a pagina 29. Tornando all'estero, ha molto colpito in Francia quello che vedete poi tutto il mondo e paese, quella che era la liquidazione prevista per l'amministratore delegato della Peugeot, un top manager, Philippe Varin, che sta per lasciare il gruppo automobilistico della Peugeot. E pensate, aveva diritto per legge, per la sua paga, 21 milioni di euro di liquidazione. La maxi buona uscita, Parigi si indigna e il manager rinuncia a 21 milioni. La storia è un'intera pagina sul Giorno, pagina 15, da top manager insensibile alle difficoltà dei dipendenti di un gruppo in crisi a uomo d'affari coraggioso, capace di rinunciare al proprio guadagno per il bene dell'azienda. Il caso scoppiato ieri mattina quando i sindacalisti hanno annunciato scandalizzati che la Peugeot pagherà a Varin 21 milioni di euro di bonus di fine carriera. Dopo la polemica montata tutta la giornata, lui dice in un comunicato: rinuncerò al controverso bonus, tenuto conto della polemica e della notizia suscitata e della polemica di che questa notizia ha suscitato, e dunque rinuncia a 21 milioni. Va bene, ma noi siamo pronti al momento più importante della rassegna stampa, la carta costa, il momento dell'assegnazione dell'articolo più inutile scovato oggi sui giornali. Oggi vince La Stampa, dove Francesca Paci a pagina 19 per un'intera pagina ci racconta la scelta dei nomi. Ci sono dei bei bebè in primo piano e la foto, e sotto la foto il titolo è: tra Francesco e Sofia, noi come lo chiameremo il nostro bambino? E c'è un'analisi dei nomi più diffusi, le comunità marocchine che utilizzano i nomi legati alla tradizione, e quindi Ahmed, Mohammed, Omar, Sara, oppure gli italiani, cosa va tra gli italiani più gettonati? Francesco, oppure Sofia, Giulia ancora. La comunità cinese invece sceglie i nomi italiani: Matteo, Andrea, Alex, Kevin, Alessandro. Ma soprattutto, chi se ne fotte di come sono le scelte dei nomi? Cari italiani, fate quello che volete, anche cari stranieri. La carta costa e alla stampa oggi non l'hanno capito. Giornale radio. Ascoltate Alino Milan, l'unico giornalista che legge il presente, ricorda il passato, predice il futuro. 24 mattino. Siamo qua, sono le 8:20 minuti in punto. Ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, vogliamo parlare di quello che è successo ieri. Se proprio vogliamo andare a vedere, non è che Berlusconi in Parlamento fosse proprio di casa, in cima alla classifica dei presenzialisti. Ha sempre preferito in questi 20 anni la piazza, il popolo, le TV, il contatto con le persone, piuttosto che fare politica lì alla Camera o al Senato. Per cui da questo punto di vista il fatto che non sia stato escluso dal Senato è un po' una notizia forse in secondo piano. Come a me personalmente, io vivo un modo un po' annoiato, sempre questo chiacchiericcio della politica: da una parte quelli che pro Berlusconi fino alla morte, dall'altra parte quelli che stappano lo spumante in piazza se decade dal Senato. Insomma, l'abbiamo viste tante volte queste scene, in 20 anni le vedremo ancora. Credo però che ci siano alcune cose interessanti di cui possiamo parlare. La prima è: ora che succede? Il governo Letta va avanti, ha i numeri? Soprattutto oggi ancora Renzi sul Corriere dice: o si cambia o finish, lo ribadisce. E poi: Berlusconi rischia davvero l'arresto? E ancora: Berlusconi fuggirà all'estero? Secondo me queste sono, ma è il mio parere, le cose più interessanti che possono colpire gli umori della gente, degli italiani. Non so se sono d'accordo, comunque ne discutiamo con il direttore del giornale Alessandro Sallusti. Buongiorno e bentrovato, direttore, eccoci qua. Buongiorno. Così come voglio salutare Francesco Bei, che è cronista di politica e che è caduto adesso la linea, ma lo recuperiamo. Francesco, Francesco Bei di Repubblica, che ha anche scritto un libro intitolato La caduta, dedicato proprio a Silvio Berlusconi. Prima però, ecco, l'abbiamo recuperato. Francesco, buongiorno. Francesco Bei, buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno a voi gli ascoltatori. Ricordate, buongiorno. Anche il libro che è in uscita, è uscito da poco, La caduta, dedicato a Silvio Berlusconi. Allora, non so, Sallusti, da dove vogliamo iniziare? Berlusconi dovrebbe fuggire all'estero, secondo lei? Ma non sarebbe un fatto inedito nella storia, molti leader politici hanno dovuto andare in esilio per continuare la loro attività, questo in tutte le epoche, in tutti i luoghi del mondo, ma non credo che sia questo il problema di Berlusconi, non credo che lo farebbe, anche se appunto avrebbe un senso politico farlo, non credo che lo farebbe perché per certi versi proprio non gli conviene dal punto di vista tecnico. Di solito un esule è uno che non lascia dietro di sé nulla, neanche dal punto di vista materiale. La famiglia Berlusconi in Italia è ben radicata, voglio dire, ha delle aziende, ha degli interessi, degli interessi propri da tutelare, degli interessi, sì, dei propri dipendenti, e quindi di solito chi è in questa situazione non molla, non può mollare. Insomma, Però pare che abbia lasciato ai figli la delega sul conto, questa mera indiscrezione di stampa, cioè che i figli abbiano il totale controllo dei suoi averi, e insomma è chiaramente legata anche a l'altro possibile scenario raccontato dai giornali, cioè la possibilità che questo si tramuti ora in arresto nel momento in cui non ha più lo scudo parlamentare. Non è così, Sallusti? Non c'è. Ma dal punto di vista del buon senso giudiziario non ha nessun senso arrestare Berlusconi. Primo perché se volesse scappare appunto sarebbe già scappato. Non tutti questi mesi, dalla condanna in poi, credo che non gli manchino i mezzi per scappare anche senza passaporto dal punto di vista pratico, tecnico, insomma. Quindi se non l'ha fatto vuol dire che non ha intenzione di scappare. Siccome l'arresto preventivo deve prevedere, il requisito principale è quello della possibilità di fuga, ecco, non avendo dimostrato questo, il buon senso dice ma metti pure che si apre una nuova inchiesta, perché devi arrestarlo? Però questo lo dice il buon senso, e la magistratura italiana ha dimostrato in questi anni di non avere buon senso nei confronti di Berlusconi. Quindi un PM pazzo, di maniera di protagonismo, in cerca di pubblicità, che vuole essere il primo magistrato italiano a mettere le manette a Silvio Berlusconi, è un rischio concreto. Ci sarà? Secondo me è un rischio concreto che ci può essere. Non so, oggi Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera scrive che dal punto di vista tecnico l'arresto di Berlusconi non è possibile. Repubblica scrive in un retroscena di Carmelo Lo Papa invece che la possibile fuga all'estero, comunque insomma, questa battuta, c'è sempre la villa di Antigua, avrebbe detto Berlusconi ai suoi. Francesco Bei, che di retroscena ne racconta davvero tanti, quasi quotidianamente su Repubblica, sono due domande che secondo lei Berlusconi si sta facendo in questo momento? Io intanto volevo aggiungere un elemento, perché si parla a quello che diceva il direttore Sallusti in merito a una ipotesi di arresto che anch'io ritengo davvero improbabile, non solo per l'età avanzata, ma c'è un'altra ragione. Si è parlato di un possibile arresto per la vicenda di Napoli legata alla compravendita dei senatori all'epoca del governo Prodi, quindi stiamo parlando di una questione che risale ad anni fa. Se anche fosse, non c'è più il pericolo di inquinamento probatorio, visto che De Gregorio, diciamo, ha detto quello che doveva dire ai magistrati in merito. Berlusconi non è più il passaporto per un'altra vicenda, quindi non c'è il pericolo di fuga, per cui davvero la ritengo un'ipotesi dell'irrealtà questa dell'arresto di Berlusconi. Certo, oggi dal punto di vista psicologico si sentirà, immagino, si sentirà nudo per la prima volta dopo 20 anni, non ha lo scudo dell'immunità parlamentare che lo tutelava dall'arresto. L'idea di un PM pazzo, come dice Sallusti, che voglia mettere per la prima volta, primo in Italia, le manette a Berlusconi, insomma, qui rientriamo nella solita diatriba che c'è da 20 anni tra magistrati e magistratura, o parte della magistratura, e Berlusconi e berlusconiani. Sì, io diciamo, personalmente non faccio mai il tifo per le manette di nessuno e anzi penso, diciamo, che sia stata una sconfitta della politica di questo paese essere arrivati al punto per cui Berlusconi è stato, diciamo, costretto all'uscita di scena in questa maniera e non con un voto popolare. E non è un caso che, a parte i 5 Stelle che hanno ieri brindato con lo champagne insieme al popolo viola, una sparuta pattuglia, diciamo, fuori dal Parlamento, e le reazioni del Partito Democratico ieri sono state contenute, tutto sommato, insomma, si sono limitate a qualche dichiarazione, fra l'altro di esponenti non di primissimo piano. Ma forse perché questo è legato al fatto che ora la tenuta di governo è davvero labile, soprattutto dopo che ancora oggi Matteo Renzi ribadisce finish se non si cambia, se dovesse andare ovviamente a capo del partito l'8 dicembre. Ah no, certo, questa è tutt'altra questione. Io penso che questo governo sia nato di base su un grande equivoco. Da una parte avevamo Berlusconi che pensava alla pacificazione e quindi, diciamo, tradotto in termini comprensibili, a una qualsiasi sorta di salvacondotto, chiamiamolo così, che fosse la grazia, che fosse qualsiasi altro provvedimento nei suoi confronti, che potesse chiudere, diciamo, quella che lui chiama la persecuzione. Dall'altra parte c'era il PD che era reduce da una mezza sconfitta, da una non vittoria, e si era infilato in un vicolo cieco di una trattativa senza sbocchi con i 5 Stelle. Questa è la base politica su cui è nato questo governo. È chiaro che quando la possibilità di un salvacondotto è venuta meno per varie ragioni, e non ultimo anche l'atteggiamento di Berlusconi nei confronti di Napolitano, è crollato tutto quanto. Ieri ascoltavo il senatore Nitto Palma che sosteneva che le larghe intese erano finite per la legge di stabilità, ma io ritengo questa veramente una bugia, un po' con un velo di ipocrisia, ecco. Significa anche far torto a Berlusconi e a quanto ha detto finora sostenere una tesi del genere. È di tutta evidenza che la formula che ci ha guidati fin qui, quella della larga intesa, è finita esattamente il primo di agosto. Ecco. Tra l'altro, Sallusti, poi voglio approfondire dopo la pubblicità, perché insomma lei negli ultimi giorni ci ha dato dentro nei confronti soprattutto di Giorgio Napolitano, ma intanto mi spieghi perché il titolo di colpo di Stato oggi, aprite così il giornale. Vabbè, lo ha detto Berlusconi, ma a parte questo, quale sarebbe questo colpo di Stato, visto che c'è una sentenza definitiva? Ma che sono state commesse tante tali anomalie, sia dal punto di vista dell'iter giudiziario, qui non entro nel contenuto della sentenza, Berlusconi dice che non è vero nulla, benissimo, io gli credo, ma non è quello il problema. Il problema sono le anomalie del percorso giudiziario e le anomalie del percorso politico. Allora, siccome è impossibile infilare che un sistema che funzioni infili in tempi così stretti una serie di anomalie sullo stesso caso uno dietro l'altro, vuol dire che c'è una regia, cioè che qualcuno ha deciso che così doveva essere, a prescindere. E chi sarebbe il regista di tutto questo? Beh, insomma, farei un torto a Napolitano se dicessi che in Italia c'è qualcuno che è più potente di lui e che gliela fa sotto il naso. Quindi il regista è Napolitano che ha gestito dei passaggi chiave dal punto di vista politico rispetto a questa vicenda, o è lui o gliel'hanno fatta sotto il naso a lui o qualcun altro. Quindi, ma è il regista anche del processo, cioè Napolitano che chiama i giudici, dice condannatelo, non so. Scandalizzarci che Napolitano Napolitano chiami il giudice, perché è il suo mestiere anche chiamare i giudici, non per dirgli come scrivere le sentenze, perché questo è, fa parte, cioè, anche ipotizzabile. Ma Napolitano è presidente del CSM. Sì, certo, ma è ipotizzabile che possa. Allora, Napolitano può chiamare il CSM e dire: signori, calma, adesso, come dire, è vero che la legge deve essere uguale per tutti, ma tutti devono essere uguali uguale alla legge. Ma quindi, l'ipotesi che Napolitano chiami i giudici del collegio di Milano che hanno condannato Berlusconi la vedo un pochino. Ma io non so se Napolitano o chi per lui, non è, quando diciamo questo, non è che diciamo che Napolitano alza il telefono e dice: buongiorno Boccassini, volevo dire che lei deve fermarsi. No, voglio dire, questo è ridicolo. Ma noi vogliamo escludere che qualcuno abbia chiamato il collegio della Corte di Costituzionale che ha deciso dal punto di vista giudiziario le sorti di Napolitano. Di Berlusconi. No, io immagino, perché se vogliamo prenderci in giro un conto, se vogliamo dire che la politica è fatta anche di una zona grigia, di moral suasion e di tante altre cose, beh, allora la politica è anche quello, e non necessariamente parliamo di fatti illegali. Sì, ma di pressioni. 8:32 minuti, andiamo in pubblicità. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Siamo con Alessandro Sallusti, direttore del giornale, Francesco Bei di Repubblica, a parlare insomma del dopo Berlusconi. Tra poco rientriamo. 24 mattino. Ci siamo riemersi alle 8:39 minuti. Eccoci qua, stiamo parlando della vicenda Berlusconi. Sentirei due ascoltatori. Siamo con Alessandro Sallusti, direttore del giornale, Francesco Bei di Repubblica. Paolo da Salerno, buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno. Allora, io volevo dire solo questo, che capisco il clamore della notizia e va bene che se ne parli oggi, sì. Però un messaggio sia a destra che a sinistra: da domani quelli di destra si rassegnassero perché è finita, e quelli di sinistra si dessero una mossa, si svegliassero perché sono finiti gli alibi. Da domani bisogna finalmente pensare al bene del paese. Lei è renziano, se no finish. No, finish. Io non sono renziano, io sono una persona che anche ha votato anche a destra, però nel corso degli anni ha cambiato idea ed è diventato un uomo di sinistra, di estrema sinistra, perché Berlusconi ci ha fatto veramente due cose così, non ce la facciamo più. Va bene, è molto esplicito il suo intervento, grazie Paolo da Salerno. Riccardo da Bolzano, Riccardo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Sì, niente, io volevo dire che sono d'accordo con il signor Sallusti quando dice che c'è stato un disegno politico per eliminare Berlusconi, perché in Italia non si è mai riusciti a mandare fuori dal Parlamento nessuno, e quindi qualcosa è successo per cui Berlusconi è stato mandato fuori. Qualcuno ha fatto modo che questo succeda, perché tantissima gente che è dentro dovrebbe essere fuori, perché delinquenti tra virgolette come Berlusconi ce ne sono anche ancora dentro in Parlamento. Sì, ma voglio dire, di fronte a questa cosa io cosa posso opporre? Cioè, se lei o se anche Sallusti dice c'è stato, è evidente che c'è stata una macchinazione, io cosa posso dire? Cioè, viene dato per assodato una cosa, caro Riccardo, che non lo so, o uno la può dimostrare, oppure. Riccardo, cosa le posso dire? Lei dice è evidente che c'è stata una macchinazione nei confronti di Berlusconi. Sì, certo, ma io con questo non voglio dire che Berlusconi non meritasse di uscire dal Parlamento, anzi, sono uno di quelli che diceva che Berlusconi doveva uscire per tutto ciò, sì, che è venuto. Però dice ce ne sono anche altri di farabutti in Parlamento. Ce ne sono altri che prima di lui sarebbero dovuti uscire. Ma la teoria craxiana, tutti rubano, quindi. No, ma è perché in Italia è ora di finire di dire il meno peggio ce lo teniamo, no, tutti quelli che hanno fatto qualcosa devono uscire. No, ma infatti, ma certo, però invece qui viene un po' usata a ribaltare, come dire, siccome ce ne sono altri peggiori non si vede perché iniziare da Berlusconi, lei no, dice. No, io non dico questo, dico che qualcosa è successo a livello politico perché questo sì, è stato possibile. Tanti altri sarebbero dovuti uscire prima, come ripeto, ma non sono ancora lì. Va bene, Riccardo, la ringrazio. Francesco Bei, qui insomma è il discorso. Posso che dire, sì, da 20 anni si ripete la questione, no, macchina. Io volevo dire una cosa in risposta all'ultimo ascoltatore e anche alle, diciamo, accuse lanciate da Sallusti sul Quirinale. La cosa che mi viene in mente è che per ragioni specularmente opposte Napolitano viene attaccato, diciamo, anche da sinistra per essere stato troppo, diciamo, conciliante con Berlusconi, avergliene fatte passare troppe, per cui ecco, sono accuse speculari che mi portano a dire che forse non sia questo, non sia questa la verità, ecco. D'altronde mi ha colpito l'altro giorno un'intervista rilasciata, se non sbaglio, a Libero dal ministro Quagliariello, che è stato un po' il ponte, no, sì, tra Palazzo Grazioli e il Quirinale in questi mesi, dalla condanna in poi, che appunto in questa intervista a Libero il ministro Quagliariello dava conto di tutte le ambasciate, di tutti i tentativi fatti da Napolitano per arrivare ad una soluzione morbida, diciamo, dell'uscita di scena di Berlusconi, che prevedesse anche la grazia. D'altronde, con quella nota del 13 agosto famosa di Napolitano sulla grazia, in qualche modo veniva pianificata veniva ipotizzato un percorso che come unica condizione prevedeva la richiesta di grazia da parte di Berlusconi, richiesta che non c'è mai stata, ma che Napolitano si diceva disponibile a dare. Non credo veramente alla teoria della, sì, della macchinazione. E poi volevo dire un'altra cosa, al di là del suo essere di estrema sinistra, Mauro, se non sbaglio, di Salerno, mi sembra che il suo discorso, cioè il fatto che ora la sinistra non abbia più alibi, non abbia, sì, più il pretesto di Berlusconi per non fare le cose, sia, beh, un questo, sentimento generale. Ma questo del in paese, teoria, non c'è, in questo, caro Bei, era anche il pretesto per fare larghe intese, cioè molte persone hanno digerito le larghe intese per dire, beh, così almeno le larghe intese possono fare le riforme. È nato per questo, no? O ce lo scordiamo? E non mi pare che in questo momento la riforma, che so, la riforma elettorale sia stata fatta, non mi risulta notizia. Però io vorrei, Sallusti, allora, chiariamo una volta per tutte, perché da qualche giorno lei si è scagliato, insomma, vecchio inacidito, golpista, oggi lo chiama coniglio Giorgio Napolitano. No, lo chiamo io, sì. Il coniglio bianco, no, lo chiamano addirittura dai tempi del partito, i compagni dell'ex partito comunista lo chiamavano, sì, coniglio bianco. Vabbè, però insomma, cioè, tra l'altro colui che ha commutato la condanna nei suoi confronti, in qualche modo l'ha salvata, no, dal carcere per la vicenda, no, tra la diffamazione, cioè, che razza di gratitudine sarebbe mai questa? Ma dunque, piccolissima premessa, ha ragione l'ascoltatore di Salerno a dire che non se ne può più di Berlusconi, ma dovrebbe dirlo alla sinistra, che è 20 anni che parla di solo ed esclusivamente di Berlusconi, cioè il mito di Berlusconi è stato creato dall'antiberlusconismo, non da Berlusconi stesso. Sono d'accordo, non se ne può più di parlare solo di Berlusconi, ma chi è che parlava solo di Berlusconi ogni minuto? Non certo Berlusconi, il quale peraltro parla di se stesso molto, ma non credo che fosse quello il problema. Per quanto riguarda Napolitano, voglio dire, io sono, come dire, non ho chiesto la grazia a Napolitano, ma commutato in maniera spontanea lui la pena, ma me l'ha commutata, voglio dire, non credo per fare un piacere a me, ma credo per fare un piacere a se stesso, perché era fine mandato, si era alla vigilia di Caranzi, si era già in campagna elettorale e probabilmente non voleva inquinare, sia pure in piccolissima parte, mi rendo conto, la campagna elettorale, dando, come dire, però un po' di gratitudine al centrodestra, un po' di gratitudine ci potrebbe con un direttore in carcere, e quindi, come dire, voleva fare quasi un piacere alla sinistra più che a me, immagino. Cioè, nonostante c'è un po' di gratitudine, non c'è. Ma il senso di ma la gratitudine però non deve sconfinare nel fatto, vabbè, siccome mi hai graziato, devo perdere il mio giudizio critico. La lettera, è vero che esiste una lettera in agosto in cui Napolitano lascia intendere che si potrebbe immaginare un percorso di grazia, ma il problema sono le condizioni che poni. Cioè, sarebbe a leggere quella lettera, Napolitano sarebbe stato anche disponibile a valutare un qualcosa simile alla grazia se Berlusconi avesse ammesso la sua colpa, fosse sparito dalla scena politica, addirittura fosse sparito dal paese, nel senso, non esisteva più, non parlava più, si ritirava a vita privata in Italia o all'estero. Beh, queste sono condizioni inaccettabili. Troppe condizioni. ma non era proprio così, era che uno accettasse la sentenza, che avesse, diciamo, un rispetto della magistratura, insomma, cose che in un paese normale dovrebbero essere normali, però insomma qua siamo anche in questo, un paese poco normale. male. Sentiamo le informazioni sul traffico. Io ringrazio Francesco Bei, so che ci devi lasciare con qualche minuto in anticipo. Ricordo ancora di Bei, se volete comprare il libro La Caduta, edito da Guanda, lo trovate in libreria. Rimane con noi gli ultimi minuti Alessandro Sallusti con i nostri ascoltatori tra poco. Eccoci, siamo qui alle 8:49 minuti. Sentirei Giorgio da Roma. Giorgio, buongiorno. Buongiorno a lei. Tanto grazie per l'opportunità di esprimermi. Dunque, io volevo solo segnare che sono abbastanza abituato a quello che succede in questo paese negli ultimi 15 anni, cioè nel senso, io ho 48 anni, ma insomma le ho viste parecchie. E quello che mi sorprende non è né Berlusconi, il suo tentativo di salvarsi, tra virgolette, ma è la continua mancanza di fatti e di informazioni di questo paese. Cioè io vedo i fatti, ho visto un'elezione dove un partito che è arrivato terzo ha governato con quello che era antagonista durante la campagna elettorale. Poi vedo un partito come quello di Berlusconi che nel momento della disperazione fa finta di litigare e crea una frattura con la parte di Alfano facendo finta di essere partito. Mi faccia finire sì. Poi i commenti. E vedo che questa situazione permette a Berlusconi di provare disperatamente di ribellarsi per salvarsi, ma stavolta non ce la fa, e non certo grazie al PD. Vabbè, ma questa è un'analisi politica, non è un fatto. Aspetti, mi faccia finire. Sì. No, sono fatti, perché bisogna vedere i numeri nelle cose. Sto dicendo i numeri, era terzo Berlusconi e governa con chi si è presentato antagonista. Questa non è un'opinione. Non è un'opinione questa. Se poi lei la considera opinione, ma certo, ma cioè, dobbiamo rifare la cronistoria che le elezioni sono state, no, che nessuno ha vinto. Guarda, nella vita le cose sono collegate a quello che viene prima. Sempre così. Vabbè, ma le larghe intese lo sappiamo tutti. Che... tutto il tempo. No, le larghe intese continuano. Il problema è che per me le larghe intese non sono finite. Sì. Perché io non credo assolutamente che Alfano abbia litigato da Berlusconi. Sì. E credo solo che sia stato costretto a fare questo per rimanere ancora al governo. Va bene. Io questo credo. E questa è un'opinione politica, va bene. Giorgio ha detto la sua opinione politica, è ben accetta come quella di tutti, ma non la spacci come un fatto. Nella politica i fatti sono pochi, le opinioni e i giudizi politici sono altra cosa, ognuno può avere il suo. Sallusti, però ecco, io dell'editoriale che ha scritto oggi mi ha colpito un'altra frase, quando lei se la prende soprattutto con Schifani, definito tra i traditori peggiori di Forza Italia. Meglio avrebbe fatto a dire ieri: faccio così perché sono uomo d'onore. Che vuol dire? Sta dando a Schifani dell'uomo d'onore, che vuol dire qualcosa di ben specifico, soprattutto in Sicilia? No, voglio dire, ripeto, tra i personaggi che sono apparsi sul palcoscenico di ieri, quello che mi ha fatto più impressione è Schifani. Ma uomo d'onore. È stato il più melenso di tutti, il più, sembrava, sì. Insomma, mi sembrano lacrime di coccodrillo. Sì, vabbè, il miracolato di Berlusconi è proprio Schifani. Lacrime di coccodrillo è una cosa, ma uomo d'onore è un'altra cosa, Beh, uomo d'onore, lui arriva da terra dove gli uomini sono d'onore, quindi... messa così, insomma, vuol dire un'altra cosa, ripeto, uomo d'onore in Sicilia soprattutto, no, proprio non so, è un po' buttata lì, però l'accusa letta tra le righe è bella pesante. Ma insomma, quello di Schifani è veramente un comportamento misterioso, quindi magari un giorno ce lo spiegherà perché è stato così ambiguo, perché altri scissionisti, chiamiamoli così, sono stati molto più chiari e lineari nel loro percorso, sia finale, e mi riferisco anche al loro percorso degli ultimi anni, perché insomma che faccio due nomi a caso, che Formigone fosse insofferente a Berlusconi o al berlusconismo è cosa datata almeno 2 anni fa, c'è una famosa intervista a Repubblica ancora nel 2009, dove già diceva basta con Berlusconi, sì. Che Alfano fosse insofferente e irrequieto non l'abbiamo scoperto l'altro giorno. Insomma, Schifani era più fedele dei fedeli. E adesso il più traditore dei traditori. Questo è un fatto, non è un'opinione. Questo è un fatto. Mario da Roma, buongiorno Mario. Sì, salve, buongiorno. Dica. Allora, io molto sinteticamente, anche la mia ovviamente è un'opinione e come tale può essere tranquillamente confutata, però al di là del fatto dell'accanimento eccetera, tutti i discorsi che facciamo ormai da lustri, io presterei l'attenzione un attimo anche alla scelta degli uomini che Berlusconi da 20 anni a questa parte ha perpetrato purtroppo a danno suo, perché di rospi fuori dallo stagno e trasformatisi in principi, Berlusconi ne ha generati diversi, poi puntualmente questi si sono rivelati dei bruto. Vede, lo dice lei, visto che lei è di Roma, la storia la conosce bene, insomma. Insomma, conosco pure parecchia gente, quindi ecco, io voglio dire, poi guardi, sinteticamente le dico questo, con una legge elettorale come questa, io trovo che questa legge elettorale sia fantastica invece, perché se Berlusconi l'avesse adoperata in maniera adeguata, avrebbe messo, ma faccio nomi a caso, Veronesi alla sanità, Rubini all'economia e via così. Invece qui ci siamo trovati quello che non sapeva chi aveva comprato casa, quell'altra che in Lombardia faceva sfilate per la Parà, cioè gli errori madornali sono questi. Io ho votato Berlusconi per tanti anni, per molti anni. Adesso come lo vede? Adesso come lo vede? Lo vede combattivo, che può tornare in pista? No, Berlusconi come dice lui, non ha nessun problema. Berlusconi anche da solo prenderebbe milioni di voti ed è meglio. Io Berlusconi lo clonerei per quanti sono i deputati e i senatori e cascerei via tutti gli altri. Cioè, lei vorrebbe un Parlamento di 930, quanti sono, Berlusconi? Proprio così, sì. Proprio così, sì. 930 così. Berlusconi. Certo, perché no, è assurdo così. Lei capisce, Alfano, con una legge elettorale diversa e un collegio uninominale, lui non lo sa, o forse lo sa e fa finta, ma i voti dove li prende? Li prende Alfano? Va bene, grazie Mario. Io devo concludere, 930 Berlusconi in Parlamento, manco Sallusti forse li vorrebbe. No, mi sembrano un po' troppi da gestire. Forse 930 neanche Sallusti li vorrebbe. Però mi fermo qui, grazie Alessandro Sallusti, direttore del giornale, grazie a tutti per essere stati con noi. Vi ricordo, se volete, sabato siamo in una diretta speciale dalle 14 alle 15, invece del meglio di 24 mattino, dalle 14 alle 15, sabato siamo alla Fiera di Milano, forumagenti.it, sono in diretta, volete partecipare tra il pubblico, potete venire, basta che andate sul sito radio24.it, compilate, ci sono tutte le istruzioni per partecipare come pubblico a Milano sabato alle 14. Ringrazio Miriam Lucchetti, ringrazio Alessandro Marcotulli, Elisabetta Fusconi in redazione e il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Seguitemi anche su Twitter, Alino Milan, quello è il mio profilo. A domani alle 7:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.